Non illuderti, non devi illuderti, non so fingere, non voglio fingere, non ciupare per me le tue lacrime. Inutile, tu sei lei.